Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Ci ritroviamo con gli amici dell'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, con noi al telefono Gianluca Codognato. Benvenuto Gianluca. Ciao Francesco, un saluto agli ascoltatori. Allora Gianluca, siamo in estate, parliamo quindi di vacanze, perché l'Adico ha sempre qualche giusta segnalazione da riportarci alla mente. Sì Francesco, siamo alle porte delle vacanze, noi in realtà abbiamo già ricevuto varie segnalazioni in questo periodo per problemi nei viaggi aerei o strutture o problemi con l'agenzia di viaggi. Adesso, vista l'importanza dell'argomento, vorrei approfittare del tuo programma per ricordare ai viaggiatori, a chi va in vacanzieri, anzi che hanno prenotato tramite tour operator o agenzia di viaggi, alcuni loro diritti molto importanti, alcune questioni importanti, insomma, da sapere per non cadere insomma in brutte sorprese. Certo. Ecco, allora facciamo, è un vademecum che insomma spero che possa tornare utile, ma sono sicuro che sarà utile a molte persone. Allora partiamo dall'inizio. Intanto, quando andiamo appunto in un'agenzia di viaggi e riceviamo il dépliant, dobbiamo ricordarci, anche appunto con le varie immagini dei vari posti in cui si può andare, dobbiamo ricordarci che oltre alla pubblicità ci devono essere scritte sempre anche le condizioni generali del contratto. Chi si rivolge a un'agenzia o un tour deve sempre farsi rilasciare una copia del contratto col timbro e con la firma. Ricordiamoci che se l'agenzia vuole rilasciare solo la ricevuta della caparra, diciamo di non firmare quel contratto. Un'altra cosa molto importante che ci viene anche chiesta spesso è che l'anticipo o la caparra, che dir si voglia, non può mai superare il 25% del prezzo totale, quindi sì. Se qualcuno ci chiede una caparra superiore, noi possiamo anche tranquillamente lasciar perdere e andarcene. E un'altra cosa che spesso accade è che questa caparra viene chiesta anche prima del tempo stabilito. Il tempo stabilito sono 30 giorni prima della partenza, non prima. E se il tour operator gli chiede prima, insomma, anche là il consiglio è quello di diffidare. Ci sono poi nei contratti, vengono inserite delle ipotesi di aumento che dipendono dalla variazione del costo del trasporto, quindi del carburante, dalle tasse aeroportuali e da altri fattori. Se nel contratto noi non troviamo scritto queste possibilità, queste possibili ipotesi di aumento, è meglio sempre diffidarne. E ricordiamoci che comunque gli aumenti non superano mai il 10%, non possono superare mai il 10% del valore del viaggio. Un'altra cosa che ci viene sempre spesso chiesta è cosa succede se improvvisamente non posso partire. Allora, in questo caso ricordiamoci che è possibile essere sostituiti, questo secondo me molti non lo sanno, almeno 4 giorni prima del viaggio, oppure si andrà a pagare la penalità nel caso in cui non si riesca a fare una sostituzione. Poi ricordiamoci un'altra cosa importante, e sempre l'agenzia del viaggio, il tour operator, ha un'assicurazione per la responsabilità civile, e quindi quando succede qualcosa noi sappiamo che l'agenzia risponderà tramite quell'assicurazione, quindi ha un mezzo di copertura molto importante. E se prima del viaggio invece ci sono delle variazioni significative della vacanza, questo succede spesso, tipo il cambio della categoria dell'albergo, anche lo slittamento di qualche giorno della partenza, il turista può, il vacanziere che deve andare in vacanza, può annullare il contratto stesso e può addirittura scegliere un'altra vacanza, ricordiamolo Francesco, che è importante, anche certo, più costosa, però alle stesse condizioni economiche di quella di prima, di quella iniziale. Dopo, e qua diciamo che entriamo sicuramente in campo noi, se dobbiamo contestare qualcosa, appunto per qualcosa che sia andata male durante il periodo di vacanza, ricordiamoci di documentare assolutamente tutto e di in questo caso o mandare una lettera al tour operator oppure rivolgersi alle associazioni come la nostra che si occupano, direi, quotidianamente di questioni di questo tipo. Cose importanti da sapere effettivamente, perché non ne sappiamo mai abbastanza, oppure ci dimentichiamo che esistono delle regole che possono aiutare il consumatore, insomma, a vivere una buona vacanza e a non trovarsi poi invece con delle difficoltà e anche ad aver perso dei soldi. Grazie quindi all'Adico. Ricordo il sito www.associazionedifesaconsumatori.it, dove si trovano poi i numeri di telefono per i contatti, perché voi siete sempre aperti. Grazie a Gianluca Codognato, alla prossima settimana. Grazie a te, Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.